Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Non solo commercio, servizi e turismo, l'emergenza coronavirus impone una trasformazione anche per il mondo dell'abitare. Le case del futuro vanno ripensate alla luce delle nuove esigenze su cui architetti e designer si stanno confrontando, dagli spazi di lavoro a quelli di svago e socialità fino ai terrazzi. Domani intanto riaprono i negozi, accessi limitati e ingressi scaglionati tra le misure previste. Vi raccontiamo la piattaforma iLove.com che permette di prenotare la prova o il ritiro di un prodotto in un determinato negozio. Dopo un primo test a Torino è pronta a sbarcare in tutta Italia. Spazio anche all'iniziativa di beneficenza di Sail Square, che regala 1000 vacanze in barca a medici e infermieri, e all'accessorio simbolo della nuova normalità, le mascherine, tra protezione necessaria e identità creativa. Il consumautore. Designer e architetti sono al lavoro per reinventare gli spazi e gli oggetti della nostra quotidianità, quindi delle nostre case, sulla scia delle nuove sensibilità maturate con l'emergenza coronavirus. Smart working, fitness, ma anche socialità, e-commerce. Come cambierà, come sta già cambiando la casa del futuro? Francesco Morace, ben trovato. Buonasera Maria Luisa. Cambierà e cambierà tanto. Molti mi chiedono ancora, ma ci dimenticheremo, tornerà tutto come prima? No, io credo che le cose che ci sono piaciute rimarranno sicuramente. Moltissimi cominciano a dichiarare che almeno uno o due giorni a casa con lo smart working lo apprezzerebbero, e quindi intanto bisogna ripensare, riprogettare uno spazio adeguato sia per chi lavora sia per chi studia. Ma poi proviamo a pensare anche a tutto il grande tema del corpo, no? Cioè è chiaro che ormai il bagno, la sala da bagno non basta, non basterà, e tanti hanno in qualche modo apprezzato poter rimanere a casa, magari sul terrazzo se ce l'hanno, a fare esercizio fisico, quindi anche uno spazio per il corpo, per il movimento, sarà da ripensare e riprogettare. E poi anche i pranzi, le cene. La ristorazione, abbiamo visto, avrà grandissimi limiti, quindi la consegna a domicilio di pranzi, non solo la pizza ma anche di qualcosa di più raffinato con gli amici, insomma va veramente ripensato un po' tutto, e i progettisti ci stanno lavorando. Pensiamo anche agli spazi condominiali, supermercati di condominio li abbiamo raccontati con i frigoriferi negli spazi comuni tipo vending machine, oppure le case dell'acqua condominiali o i lockers per ricevere i pacchi dall'e-commerce, e poi grande valorizzazione, Francesco, per gli spazi verdi, terrazzi, ma anche serre domestiche, orti sui balconi. Sì, è proprio così. Se l'indicazione di prima può essere definita un po' di ultra domesticità, no? Cioè rimarremo sicuramente più tempo a casa perché in fondo ci è piaciuto. Questa la possiamo chiamare un po' un recupero del paradiso perduto, dello paradise, cioè la natura che entra in casa. Era già una tendenza forte, presente, ma balconi, terrazzi, si parla anche di orti verticali, di serra, insomma davvero non solo chi ha il pollice verde oggi apprezza la possibilità, senza muoversi, di prendersi cura di questa dimensione, quindi grandissima importanza alla natura anche in casa. Dicevamo grandi stimoli creativi non solo per l'architettura ma anche per il design, penso quindi ai complementi d'arredo modulabili che si spostano con facilità, che hanno più destinazioni d'uso e poi cambiano anche i materiali. Multifunzionalità nei materiali, sicuramente il legno, che sembra anche, diciamo, allontanare di più i virus rispetto alla plastica, ma anche perché anche questa era una tendenza in atto, ma questo è talmente vero che andrà a influenzare anche le dimensioni extra domestiche. Pensiamo agli uffici, pensiamo ad alcuni luoghi della città, una sorta di sindrome un po' da nido, no? Cercheremo un po' tutti i luoghi protetti, luoghi in cui potremo stare o da soli o con piccolissimi gruppi di amici. Quindi anche qui materiali caldi, materiali che in genere si utilizzavano in casa e che verranno usati anche nella città, negli uffici, addirittura anche nei luoghi di trasporto. Cambiamo argomento, le immagini hanno fatto il giro della rete, code anche fino a 1 chilometro in Francia, Parigi, ma non solo per la riapertura dei negozi. Gli scatti davanti a Zara hanno sollevato anche molte polemiche per l'assalto ingiustificato. Vedremo come andrà da domani in Italia. Una cosa è certa, gli ingressi andranno contingentati e all'interno andranno messe in atto tutte le misure di contenimento, distanze, guanti, eccetera, ormai le conosciamo. A Milano è stato stimato che per ora soltanto il 65% dei negozi alzerà le serrande. Sullo scenario di questa nuova normalità vi raccontiamo la piattaforma iLove.com che permette di richiedere un prodotto simultaneamente a più negozi, ricevere varie proposte di prezzo e poi prenotare la prova o il ritiro. Dopo un primo test a Torino è pronta a sbarcare in tutta Italia, come ci ha raccontato il fondatore Renato Mascolo. iLove.com è nata 3 anni fa, nel suo DNA alla prenotazione nei negozi fisici. È nata per favorire l'incontro tra quelle persone che cercano un prodotto sul web ma poi vogliono andare a comprarlo in città, e quindi noi favoriamo l'incontro tra i negozianti e queste persone che possono cercare il prodotto in più negozi, avere delle risposte, diciamo, in tempo reale, e prenotare appunto il prodotto per andarlo a provare o a ritirare in negozio. Funziona in modo molto semplice. L'utente che arriva con un prodotto di solito ben preciso in mente invia una richiesta simultanea a più negozi che hanno o possono avere quel prodotto. Una volta inviata la richiesta, in breve tempo ricevono diverse risposte dai negozianti in tempo reale. Valutata, diciamo, la migliore, prenotano nel negozio appunto dove preferiscono andare, per vicinanza o per prezzo. Con un codice di prenotazione quindi si recano presso questo negozio, il negoziante farà provare o consegnerà il prodotto a seconda che il cliente appunto abbia scelto la prova o il ritiro nel punto vendita. Siamo nati come test a Torino, abbiamo scritto più o meno 500 negozi a Torino, ci stiamo espandendo già da novembre in tutta Italia, quindi siamo presenti nelle maggiori città, ci stiamo espandendo in più di 50 città d'Italia, quindi siamo a Milano, Roma, Napoli, Palermo, insomma le grosse città, ma anche le piccole, soprattutto adesso in questo periodo stanno crescendo, insomma ci stanno arrivando diverse adesioni da tutta Italia. Perché voi avete anticipato i tempi, per così dire, quella che prima magari era una metodologia per accelerare la ricerca, per digitalizzarla, diventa una necessità ora con questa emergenza. Sì, è chiaro che il commercio locale adesso ha bisogno di riprendersi. Noi cerchiamo di favorire con un prodotto super testato, abbiamo tantissima esperienza appunto in questo campo perché lo facciamo già da 3 anni. Abbiamo aggiunto la funzionalità delle fasce orarie come ulteriore possibilità per poter appunto non solo dialogare col negoziante, perché attraverso l'Ocom da casa l'utente può anche dialogare se ha dei dubbi con una messaggistica avanzata, ma quindi prenotare anche una determinata fascia per evitare appunto gli assembramenti che in questo momento sono da evitare e che anche il governo consiglia di dotarsi appunto di strumenti di prenotazione. Dall'app trova mascherine all'artigianato e all'innovazione Made in Italy. Restate con noi perché nella seconda parte parleremo, fra le altre cose, dell'accessorio simbolo della nostra nuova normalità. Tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Mille vacanze in barca a vela per medici, infermieri e operatori sociosanitari che in questi mesi stanno affrontando in prima persona l'emergenza sanitaria. Per la seconda parte di Essere Avere ripartiamo da qui, dall'iniziativa di Sailsquare, piattaforma leader per la prenotazione di vacanze in barca a vela, catamarano e caicco, una community di 100.000 utenti, oltre 2.500 skipper in tutto il mondo. Grazie mille, il nome dell'iniziativa ce la racconta Francesca Ellisse. Nasce appunto come una sorta di give back, il voler donare queste mille vacanze agli operatori che hanno appunto sconvolto le loro vite, un po' come abbiamo fatto tutti, ma loro ancora di più probabilmente. Quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari su tutto il territorio nazionale possono richiedere una vacanza gratuita. Ovviamente c'è da compilare un modulo dove chiediamo poi dei documenti per verificare appunto tesserino, badge ospedaliero, eccetera, e chiediamo anche una loro testimonianza, quindi di raccontarci una storia e di mandarci una loro foto. Devo dire che sono già arrivate tante richieste, perché ne sono arrivate quasi 100 in 24 ore, e le storie che ci raccontano sono molto belle. Questa iniziativa nasce da noi, ma è assolutamente fattibile grazie alla community di skipper, che sono circa 2.500, che appunto si sono detti entusiasti di questa iniziativa e hanno partecipato assolutamente volentieri, hanno messo appunto a disposizione queste mille vacanze. Avremo tutti bisogno di una vacanza, perché anche chi nel proprio piccolo ha sconvolto la propria vita sicuramente avrà bisogno di ritornare a respirare, a vivere normalmente, ad avere del benessere, diciamo. Loro sicuramente sono stati in prima fila e sono sicuramente la categoria che più in questo momento ha necessità di recuperare la normalità, ecco. Probabili le vacanze nelle acque di casa nostra, per così dire. Quali altre previsioni state studiando per tornare in vacanze in sicurezza anche nella vostra offerta, nelle vostre barche? Allora, noi al momento stiamo tenendo monitorata la situazione nel rispetto di tutto quello che ci verrà richiesto di norme e regolamentazioni sulla sicurezza. Noi agiremo. Ci sono tante cose che si dicono in questi giorni, a partire da macchine all'ozono che aiutano a depurare l'aria, oppure riempimento parziale delle barche. Ci terremo aggiornati per capire come meglio proporre le nostre vacanze. Del resto, le barche a vela consentono un distanziamento al di là dell'equipaggio interno, un distanziamento naturale. Si tratta comunque di una vacanza in solitaria con chi la si vuole condividere, quindi con la propria famiglia o anche il proprio gruppo magari di amici. Si è isolati, certamente, si battono zone non frequentate dai turisti, perché con la barca a vela si può arrivare in baie nascoste, assolutamente isolate, incontaminate. Quindi sì, è diciamo una soluzione molto valida e se ne sta parlando anche tanto. Focus sui trend. Dimmi che mascherina indossi e ti dirò chi sei. Potremmo parafrasare così sul tema di questa sera il payoff di essere e avere, al pari di un paio di occhiali, un cappello, una borsa, la mascherina tra necessità e creatività sta diventando, come era facile prevedere, un accessorio identitario sul quale si misurano brand, aziende, designer e creativi in genere. Insieme a Sabrina Donzelli di Future Concept Lab abbiamo mappato le iniziative che fanno tendenza. Ciao Sabrina, bentrovata. Bentrovata a te. Come dicevi, ne abbiamo mappate molte e ne raccontiamo solo alcune di tante iniziative che danno risposte pratiche, soluzioni creative o entrambe allo stesso tempo. Iniziamo con uno strumento davvero utile. Chi di noi nelle scorse settimane o tuttora non ha chiamato almeno una farmacia per sapere se avessero o meno esaurito le mascherine? Ora c'è un'app Trova Mascherine. Esattamente, Trova Mascherine, il nome già dice tutto, un grande aiuto a cercare, a trovare soprattutto un luogo, farmacie o anche altri eventuali luoghi preposti alla vendita di mascherine per evitare lunghe file o un itinerare da negozio a negozio. Trova Mascherine è appunto una web app, e quindi un'app che si può accedere direttamente dal sito senza doverla scaricare, ideata da quattro giovani professionisti, due di Asti, uno di Brescia e di Vimercate, diciamo dei cervelli che sono ritornati in qualche modo e hanno ideato questa soluzione. Attraverso l'app si può verificare dove nella propria zona sono disponibili quattro dispositivi: mascherine, ma anche gel disinfettanti, guanti monouso e termoscanner. Una piattaforma, fra l'altro, gratuita e open source, interamente non profit, quindi gratuita per tutti, intendo non solo per i cittadini, ma anche per farmacie, per enti e amministrazioni. Il secondo è un progetto che mette insieme artigianalità e solidarietà, raccontacelo. Anche qua c'è l'idea di una mappatura, è una mappatura addirittura mondiale, la mappa mondiale delle maschere artigianali. Questa iniziativa parte da una società svizzera che si chiama WorksUp Africa, una società svizzera nata alcuni anni fa da due imprenditori appassionati di tessuto africano, il tessuto con queste stampe colorate, con delle grafiche molto belle, realizzate con una stampa a cera, molto diffuso in paesi, diversi paesi africani, in particolare in Africa occidentale. Quindi un sostegno a imprenditori locali alla produzione certificata locale di questi tessuti. Ecco, cosa hanno ideato e hanno lanciato il 20 marzo? La disponibilità a inviare, donare i propri tessuti di cotone 100% realizzati in Africa a sarti, sarte, associazioni, laboratori in tutto il mondo per la realizzazione di mascherine. Quindi è possibile anche andando nel sito di WorksUp Africa verificare dove nei diversi paesi del mondo sono presenti associazioni o riferimenti per la vendita, per la realizzazione artigianale. Per esempio, in Italia, a Roma, un laboratorio che si chiama Coloriage, è un laboratorio tessile che già da più di un anno impiega e forma artigiani, come dire, in difficoltà, lavorando con migranti, richiedenti asilo, ma anche con italiani con problemi economici. Quindi una solidarietà a doppio binario. Un altro centro in Italia che fa parte di questo network di mascherine artigianali con questi tessuti africani, con queste stampe, è a Treviso, si chiama Talking Hands. Anche loro hanno promosso delle iniziative e in questo caso anche hanno creato un kit di fai da te per tutti quelli che a casa possiedono una macchina da cucire e vogliono crearsi la propria mascherina, sapendo che non è una mascherina medica, chirurgica, ma che può contribuire a una protezione personale. Stiamo parlando in molti casi di quelle appunto che vengono definite mascherine di comunità. Ora parliamo di innovazione di Made in Italy, un altro caso in evidenza in questi giorni. Di cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa recentissima di inizio maggio, si chiama iMask, è stata lanciata da una startup siciliana e qui la classe di protezione è molto alta. Questa è una mascherina con il filtro FFP3, per intenderci, è realizzata in innovativo tessuto a base di polipropilene certificato in questa classe di protezione alta. È lavabile e sterilizzabile. Non è un dispositivo usa e getta, questa è anche una soluzione a un problema attuale, no? Di molti dispositivi usa e getta, per cui è fortemente ecologica, è riciclabile ed è anche ergonomica perché può adattarsi, essendo in questa gomma termoplastica anallergica, come dire, adattarsi alla forma del viso. Ecco, ed è per uso medicale, è in corso l'iter di certificazione e nella versione trasparente lascia vedere anche un po' l'espressione del viso, risolve il problema del coprirsi il volto e quindi rendersi riconoscibili. Come sempre le immagini nella gallery sulla nostra pagina Facebook, il prossimo, devo ammetterlo, è tra i miei preferiti, ha a che fare con una delle novità più attese di questa fase 2, la riapertura di bar e ristoranti. Una mascherina che si chiama Soffio, che è stata appunto pensata a quei momenti di eventuale convivialità in bar e in ristoranti. È sempre anche questa un'idea italiana, è stata lanciata da uno studio, Marg Studio di Milano, esperto in retail e in progetti legati a hotel, ristoranti, bar. Loro si sono voluti muovere non nel ripensare lo spazio, ma nel ripensare le possibilità delle persone all'interno dello spazio, e quindi con Soffio hanno progettato questo schermo gonfiabile per il viso, composto da una visiera protettiva in plastica in una cornice colorata. È facilmente assemblabile, si può indossare per cenare o bere qualcosa con gli amici. Tra l'altro il costo sarebbe veramente molto basso, meno di un euro loro prospettano. Potrebbe essere fornito dal proprietario del bar o del ristorante all'ingresso, e poi i clienti possono, ovviamente dopo averlo gonfiato e indossato tutta la sera, possono anche portarlo a casa, lavarlo e igienizzarlo. È anche un po', come dire, ironico, sdrammatizza e può essere veramente utile. Fra l'altro la valvola di soffiaggio è situata all'interno della maschera e protetta dal contagio, quindi insomma ci sono degli elementi, diciamo, di sicurezza e degli elementi che possono essere utilizzati anche dal proprietario del ristorante o del locale, anche per brandizzare l'oggetto. Ecco, quindi ci sono un po' di soluzioni interessanti. Chiudiamo con un progetto collaborativo alla ribalta mondiale, una specie di, anzi, un tutorial per riuscire a realizzare in autonomia una mascherina di comunità con quello che si ha in casa. Sì, un vero e proprio movimento che in questi ultimi mesi è cresciuto tantissimo. Si chiama Masks for All, un hashtag inizialmente, e poi un sito, una divulgazione molto ampia per rendere veramente possibile le maschere per tutti. Anche questo è nato da una comunità fatta da esperti diversi, non solo scienziati, medici, imprenditori, ma anche divulgatori scientifici, quindi da esperti di salute pubblica a esperti di stampa 3D, accompagnati anche da intellettuali designer in oltre 70 paesi del mondo. Oltre a promuovere informazioni, danno anche indicazioni su come realizzare le mascherine, su come pulirle, su come muoversi prima di creare la mascherina e anche sui materiali. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.